Tutte le cose sono la mente spontanea. Colui, colei che medita non ha niente da meditare. Qualsiasi percezione si manifesti spontaneamente, sia lasciata unita, chiara, risplendente. Poiché il significato è immutabile, è unita. Poiché vi è una reale comprensione, è chiara. Poiché si è liberi, libere nella propria condizione, è risplendente. Così come per esempio il burro sta liberamente nel burro, questo samadhi privo di meditazione è la meditazione suprema. L'azione spontanea viene autoliberata nel sorgere direttamente. Non è azione che sorge da uno scopo, poiché sorge equanimamente, non è necessario catturarla con un antidoto. Se si conosce che perfino l'essenza si manifesta spontanea, non si ostacola in se stessi l'autoliberazione. Se si ha una profonda comprensione, non si ostacolerà il reale comportamento. Senza intraprendere azioni in cui non vi è reale comprensione, attraverso l'esposizione di questi insegnamenti con la profonda benedizione di Dhampa, calpestando i pensieri discorsivi, si riceve gradualmente il potere spirituale e sorge la reale comprensione. Questi insegnamenti espressi in verità sono al di là di tutti i campi di azione. Il comportamento supremo è non avere un comportamento. Se non si pratica, quella è la pratica. Quanto all'esperienza, l'esperienza della mente conoscitiva nella condizione della realtà pura non è da esperire. Oltre lo stato privo di nascita, non vi è nulla da prendere. Attraverso la pratica si fa esperienza della Dharmata, la legge naturale, poiché le visioni mentali sono considerate un oggetto esterno. Esse sono la mente. La meditazione priva di attaccamento verso gli oggetti esterni è il supremo sentiero spirituale.